l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno con la R rotacizzata, come si diceva un tempo, cari ascoltatori di Radio 24. Eccoci qua in diretta dagli studi di Milano, i cari compari un po' gufeschi dei conti della Belva, dallo studio di Milano vi salutano, vi ringrazio, vi ricordo il numero di telefono per intervenire. Ora, come al solito, vi dirò di che cosa ci occuperemo nella trasmissione e su cosa vorremmo davvero che ci deste la vostra opinione, ma intanto i saluti. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia. Mario Seminerio. Renato Cifarelli. Eccoci qua in questo studio di questa caldatissima a Milano che aspetta tra poche ore l'evento della finale della Coppa dei Campioni, e c'è una Milano invasa dagli spagnoli e tutti gli esercenti commerciali, devo dire, sono molto felici. Qualche preoccupazione, ma insomma il tifo spagnolo dovrebbe essere molto placido e quindi non ci dovrebbero essere problemi, speriamo ovviamente. Allora, di che cosa parliamo oggi in questa puntata? Come sapete, iniziamo con la rubrica di Mario Seminerio, a che punto è la crisi, e in questa settimana diciamo c'è un dato con questa frenata degli ordinativi e del fatturato dell'industria, un dato trimestrale 2016 su 2015 un po' pesante, meno 3,6%, il peggior dato sul 2013, ma la questione che ci poniamo al di là del è come leggerli questi dati, perché noi avevamo un dato due settimane fa del PIL trimestrale, lo stesso trimestre, che era un più 0,3%, che comunque era apprezzabile rispetto ai chiari di luna precedenti. Tenteremo di capire come questo, i numeri del mercato del lavoro di cui abbiamo parlato sabato scorso, un'altra frenata, ma lì c'è una spiegazione, il decalage dei contributi, vadano letti, se c'è qualche picco statistico che insomma deve portarci a non sopravvalutarne l'effetto negativo. Quindi, come vedete, siamo per una volta non siamo lì a soffiare sul fuoco, ma perché i numeri e i fatti ci spingono, vedremo, ma insomma credo a leggere così questo dato. E però la domanda diventa: se voi che sensazione avete? Avete la sensazione che le cose vadano un po' meglio, come diceva il dato del PIL, un po' peggio, vi fidate, non vi fidate? Non c'entra il governo, qui è la questione i numeri, i consumi e il reddito. Dopodiché una prima parte della trasmissione la dedichiamo alla crisi delle imprese editoriali, essendo qua in un'impresa editoriale abbastanza grossa come questa del Sole 24 Ore di Confindustria. Confindustria nel frattempo ha cambiato la sua presidenza, auguri a Vincenzo Boccia, ma soprattutto ci interroghiamo su i nodi che vengono al pettine in RCS, quindi l'azienda del Corriere della Sera, della Gazzetta e dello Sport. Siamo arrivati a un punto in cui queste due offerte che si affrontano, da una parte quella di Cairo, l'editore della Sette e di una serie di settimanali specializzati con i conti in ordine, che ha offerto un'offerta pubblica di scambio. Poi c'è stato un rilancio di quattro soci storici di RCS con l'aggiunta dell'Invest Industrial di Bonomi. Ne parleremo con Massimo Mucchetti, che è stato a lungo anche vice direttore del Corriere della Sera, oggi è presidente della Commissione Industria al Senato, e tenteremo di capire che cosa aspettarci anche qui in questa circostanza. E soprattutto la domanda è: ma queste due offerte che si confrontano sono davvero l'esordio, primo passo verso un ingresso al Corriere della Sera di un imprenditore editoriale vero, serio, visto che il valore distrutto per miliardi a RCS, come tante altre imprese editoriali, invece è nato perché c'era uno scontro di potere, oppure finirà con un'altra rete di potere invece che con imprenditori che capiscano che le imprese editoriali vanno profondamente trasformate e non più usate come strumento di potere? Anche qui diteci la vostra. E poi andiamo a un'altra questione, cioè quella dell'8 per 1000. Questa è dichiarazione e tempo di dichiarazione dei redditi, quindi anche di scelta da parte vostra dell'8 per 1000, e ci interrogheremo con Dario Stevanato intorno a alcune storture gravi, molto rilevanti sull'8 per 1000, messe per iscritto anche quest'anno dalla Corte dei Conti qualche tempo fa. È un uso improprio che si fa di questo strumento, perché nel tempo le correzioni i governi non le fanno, continua a essere molto finalizzato a favorire una parte, ne ricorderemo il perché, la Chiesa Cattolica ha un meccanismo tra il dichiarato e la ripartizione delle somme che è molto distorcente, ed è questo che va a vantaggio della Chiesa Cattolica. I fini per cui si utilizzano queste risorse non sono quelli di legge, non vengono rendicontati come prevede la legge, lo Stato non se ne occupa, e la domanda è perché. Quindi la domanda è, diteci, telefonateci per dire che scelta fate voi per l'8 per 1000, oppure non la fate, perché, e non pensate che vada un po' corretta questa storia, evitando di continuare negli anni a utilizzare il meccanismo di chi non opta per proiettarlo invece a favore di chi porta a casa sempre più soldi, cioè la Chiesa Cattolica. Non è una campagna contro la Chiesa Cattolica, però è un meccanismo distorsivo della scelta di noi tutti. Oltre a tutto questo, quindi chiamateci su tutti questi argomenti. Naturalmente il consueto giro per vedere che cosa in settimana vale la pena di segnalare o ci ha fatto arrabbiare. Mario, che cosa aggiungiamo? Allora, io faccio notare, mi ha colpito il fatto che il, come chiamarlo, il piccolo leader, il premier in pectore del Movimento 5 Stelle, presentando il disegno di legge del Movimento 5 Stelle sulla Banca d'Italia, ha detto che la Banca d'Italia deve tornare ad essere pubblica, perché secondo loro attualmente è privata. Questo è un antico contenzioso di pura ignoranza, suggerirei di leggere lo statuto della Banca d'Italia e di vedere come funziona la Banca d'Italia, però la Banca d'Italia deve diventare una banca di investimento. Inciso, le quote delle banche di soggetti privati che sono assolutamente maggioritari nel capitale della Banca d'Italia non, per statuto, attribuiscono a questi soggetti alcuna funzione di esercizio di diritti proprietari di gestione, non, ma proprio nessuna. Resta un ente pubblico, nessuna, classificato come tale. Esatto, e Banca d'Italia deve fare la banca di investimento. Quindi questa è una novità assoluta nel magico mondo dei 5 Stelle. Per beh, cui... però dai, hanno anche messo che l'azienda dell'acqua è privata. Perché, perché è un SPA. Perché è un SPA. Esatto, quindi... sì, sì. Sì, sul blog di Grillo. Quindi, esatto. Perché si confonde il fatto della denominazione sociale e della forma societaria, la forma giuridica diventa, ma secondo loro da sempre esatto, fanno così. Non sono soli, No. Oh, ma a proposito di diciamo acqua e quant'altro, io questa settimana ho appreso, diciamo da bravo cittadino italiano, che ci sono persone così poliedriche che, partendo a proposito di acqua, di municipalizzate che hanno avuto spiacevoli incidenti di percorso sta settimana, ho scoperto che ci sono persone che si laureano in psicologia, diventano presidenti di utility dell'acqua, vanno a dirigere un foglio di partito che è praticamente in stato vegetativo, e dopodiché tornano a Palazzo Chigi. Erasmo D'Angeli, scusate, io devo tradurre. No, voi traducete, Mario traduce. Come enigmi riferimento. Esatto, poi dopodiché ognuno si informi, eccetera. Diciamo che questo è un paese pieno di riserve, non idriche, ma proprio di riserve della Repubblica. In panchina, è un paese in riserva, c'è la Spia Rossa che tra un po' si spegne, e si spegne anche quella. No, la Spia Rossa non si spegne. La Spia Rossa vince il referendum. La Spia Rossa va avanti. Adesso vabbè, abbiamo già sparato po' di cartucce. Un'ultima cosa, io ho... appreso con una qualche sorpresa del ritorno in ambito governativo di Enrico Bondi al Ministero dello Sviluppo Consulente Economico. Consulente gratis con Carlo Calenda. Sì, però, allora, io dico, Calenda è un manager, è già stato al MISE, conosce perfettamente la struttura. C'era veramente bisogno di portarsi a casa un'icona, una Madonna pellegrina da portare in pellegrinaggio? Però lui sa, con questo gesto, mi ha colpito perché Carlo Calenda ha fatto il migliore intervento che c'è stato all'Assemblea di Confindustria, era assolutamente più concorrenza del mercato di tutti quelli che ho sentito prima, infatti se ne è scesa la sala, ha detto brutalmente fuori dai denti a tutti i presenti: il ministero è aperto per voi, è casa vostra, purché sappiate che chiunque di voi ci mette piedi viene naturalmente debitamente comunicato, perché c'è anche un problemino dopo la figuraccia della Guidi. Ha spiegato sul TTP, ci ne occuperemo le settimane prossime, con un, devo dire, con un certo fegato e una certa durezza delle cose che nella comunicazione italiana non si dicono mai, e così via. Ha detto chiaramente che gli tagli i sussidi alle imprese, guarda che da un parte di un ministero alla platea di Confindustria, vedere per credere, però ha preso l'impegno. Sono 30 miliardi. E nel dire, io la spending review la riprendo abbandonata dal governo, la riprendo sulle proposte del ministero, sulle proposte di Cottarelli, Bondi e così via, E insomma, un dito nell'occhio un po' scomodino al governo l'ha dato. Sì, certo, sì. Adesso, dici tu, poteva farne meno. Lui prende il simbolo proprio per quello. A questo punto vedere per credere, Carlo. Però certo. Io stesso ho detto, prendiamo le parole di Calenda come l'inizio. Anche perché abbiamo una proliferazione di esperti di spending review qua. Oddio, per quanto Gutgeld non si possa definire un esperto, più che altro un politico. Vabbè, diciamo. Ma dai, però, Gutgeld è stato usato come la versione ufficiale, che è già stata chiusa e finita con successo, come dire. Comunque, vabbè, vediamo cosa farà Calenda. E tu invece? No, io invece mi ricollego all'assemblea, visto che ne parlavi, mi ricollego all'assemblea di Confindustria, dove il ministro della cultura, che mi fa molto piacere sia stato invitato, perché... Dario Franceschini. E perché ha aperto ai privati, quindi. Perché ha aperto ai privati. Però volevo rassicurarlo, visto che è tempo di bilanci, è tempo in cui ti dicono quante tasse devi pagare, che ne ho già adottati una certa quantità di monumenti. E direi che ho adottato anche una certa quantità di dipendenti pubblici, quindi dai, sei un imprenditore, devi salvare un pezzo del tuo Colosseo. Ma l'ho già, con tutte le tasse che pago, mi sembrava di averlo già saldato. Le tasse sono scese. E siccome sarebbero per i servizi, e io invece per entrare in azienda da me ci sono dei buchi, che fra un po' ci entriamo in bicicletta. Polemica antigovernativa, no? Di basso conio. Certo. Sto scherzando, ovviamente. No, a me ogni tanto dà fastidio, perché siccome da noi vengono molti stranieri, ogni tanto mi guardano le buche che ci sono lì davanti e dicono... E a proposito di buche, traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, ci ha raggiunto per telefono, siamo tornati in diretta, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Come stai, Carlo? No, ci ha raggiunto? Non ci ha raggiunto, caro. Ecco, ci aveva raggiunto, ma draghi, è caduto raggiunto. Il collegamento. Allora, qualcuno che fa PIL dobbiamo sempre tenerlo. Noi ci dividiamo. Fa bip più che altro. No, noi ci dividiamo e ogni settimana uno sta a casa, così fa PIL. A parte il nostro capo supremo che fa PIL stando qua. Da, secondo me facciamo una volta a settimana, facciamo Willy Coyote, è quello che non riesce mai tenta di acchiappare il PIL e finisce sempre. Eccoci qua, caro Alberto. Casca la linea appena ti evoco. Così. Ma sono qui, sto cambiando le gomme a mezzo mondo qui con i cinesi, mezzo miliardo di cinesi per cambiare le gomme. Ma tutti in Bocconi oggi? No, non sono in Bocconi, sono un po' più a nord. Sono in Viale Sarca, dai, lo sapete, c'è una nota fabbrica. Una certa fabbrica. Con i cinesi. Quindi, ragazzi, però l'essenziale giallo, è che giallo, reggano. Il logo è sempre stato giallo. Quindi. Reggano. Questi cinesi reggono. Reggono. No, sai che con i cinesi io vado d'accordo, perché sono tanti, guardano al futuro, sono aperti all'innovazione. No, io vado sempre d'accordo con i cinesi. No, poi soprattutto non hanno questo dubbio e questa ricorrenza così pesante, che impatta così pesantemente sulla nostra politica, che sono le elezioni ogni X mesi. Appunto, lì hanno risolto il problema. Questa noiosa forma della democrazia, sempre a farsi referendum, onestamente. Le riforme strutturali. Ecco. Allora, rubrica e ripartiamo. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non... Allora, Mario, Carlo Alberto, Renato, vediamo di dire ai nostri ascoltatori se si devono preoccupare molto, moltissimo, o forse meno di quanto sembri con questo dato trimestrale proiettato sull'anno degli ordinativi del fatturato... dell'industria, che è stato un peggior dato dal 2013, meno 3,6%. Come sta insieme questo meno 3,6% sul fatturato rispetto al 2015, quando il PIL era più 0,3% sul 2015, Mario? Ma come sta insieme non lo so, vediamo la revisione, anzi il dato definitivo della stima del PIL del primo trimestre, che dovrebbe uscire tra un paio di settimane. Io però devo dire, contrariamente a quello che la gente si aspetta forse da me, non sono particolarmente turbato, perché i dati di marzo sono disturbati profondamente dalla Pasqua, no? Che quest'anno è caduta molto bassa. E quindi probabilmente c'è un effetto di disturbo piuttosto vistoso su questi dati. fermo restando, cioè una componente che non siamo in grado di valutare, ma che c'è di sicuro essere, del ribasso, esatto, si deve a questo. Non può essere destagionalizzata. Perché gli imprenditori, come era nato, quando c'è una festona, fanno ponte, chiudono tutto, niente ordine, niente. Caro mio, non può essere destagionalizzata. Beh, sai, c'è anche adesso una piccola... mi picchia. No. Ma no, c'è anche. No, c'è anche una legge che ti obbliga a dare le ferie ai dipendenti. No, siccome qua mi dicono già che ho la prosopopea, perché ho detto che pago i dipendenti pubblici con le mie tasse. No, ma queste cose non bisogna dirle. Tu dovresti dire io vorrei pagarne di più. Questo è il punto. Perché le tasse, allora, sono belle. Primo componente, la Pasqua, Mario. Sì, tuttavia, se guardiamo il dato, la media mobile a tre mesi, che è quella che ci serve per smorzare appunto le volatilità mensili, è abbastanza evidente che c'è un andamento abbastanza riflessivo, come dicono le persone che fanno analisi economica. C'è un andamento riflessivo degli ordinativi dell'industria, ma soprattutto c'è un andamento decisamente cedente, ma da quasi un anno, nella media mobile a tre mesi, del fatturato dell'industria. Qui possiamo anche ipotizzare che il crollo del prezzo delle materie prime, diciamo, e tutte le altre pressioni deflazionistiche stiano agendo. Quindi sì, alla fine crollano le materie prime, i semilavorati, eccetera, e quindi tutto a valle scende e arriva ai prezzi al consumo, che a loro volta sono più bassi. C'è un punto interessante per quanto riguarda il dato, anch'esso molto negativo, di marzo, del commercio al dettaglio. Qui è controintuitivo il discorso, cioè poiché in marzo è caduta la Pasqua, uno si aspetterebbe un robusto aumento delle vendite al dettaglio per gli acquisti tipici della stagionalità pasquale. Non è avvenuto in senso lato per il numero generale, e soprattutto se andiamo a vedere il dato reale, cioè in volume, cioè al netto dell'inflazione, il dato è ancora più negativo del previsto. Questo cosa vuol dire? Che, come segnaliamo da molto tempo, la grande distribuzione e più in generale il commercio al dettaglio, per stimolare gli acquirenti e gli acquisti, attuano delle campagne di sconti molto aggressive. Questo che cosa causa? Che le quantità vendute, cioè le vendite in volumi, reggono bene, aumentano in maniera soddisfacente, ed è questo, è il dato in volume che entra nel calcolo del PIL, esatto. E ci illustra l'andamento positivo del consumo delle famiglie nel calcolo del PIL reale. Tuttavia, le aziende di commercio al dettaglio, la grande distribuzione organizzata, soffrono perché hanno un'evidente pressione sui margini che deriva dal fatto che il cavallo, cioè il consumatore, beve solo se si attuano delle politiche di sconto, esatto, molto aggressive. D'altro canto, se guardiamo alcuni indicatori, come l'indice dei direttori acquisti delle imprese di commercio al dettaglio, per l'Italia sono sempre sotto la soglia di 50, cioè sono sempre in contrazione, perché queste aziende fanno fatica a conservare margini e redditività perché sono condannate a politiche di sconto piuttosto aggressive, e quindi la marginalità e la redditività di queste aziende soffre. Quindi, per farla breve, bene i consumi in termini reali, però attenzione che dietro c'è un'intera filiera produttiva che sta soffrendo a livello di conti. E questa è la radice. Strutturazione organizzativa, esatto, del però, modello. Mario, questo non è un dato tattico, è un dato strutturale. No, certo. Sono anni che mi occupo proprio di studiare questi meccanismi di promozione con milioni di clienti in Italia, ormai, e ti devo dire che ci sono 8 miliardi spesi sistematicamente dalla grande distribuzione per drogare il mercato. Certo. E ogni anno c'è sempre più droga e ogni anno i prezzi sono sempre in discesa. Perché è il dato strutturale che con l'arrivo di internet la comparazione dei prezzi, l'opportunismo dei clienti è diventato strutturale. Certo. E non torni indietro, quindi o cambi veramente la filiera distributiva e l'ingaggio col cliente, oppure non esci. E hai notato che anche il sentiment del consumatore è leggermente diminuito, siamo tornati, sì, ai livelli dell'agosto dell'anno scorso. Questo è un segnale interessante magari da commentare. Perché noi eravamo ai massimi OCSE come indice di fiducia delle famiglie a dicembre 2015. E adesso invece c'è una divaricazione in corso tra imprenditori, che resta un po' positiva, e famiglie, che invece scendono. Sì, tra l'altro la cosa curiosa dell'indice di fiducia delle famiglie, che è diminuito, ma è diminuita la parte relativa alle prospettive sul paese. Sul paese. Mentre prima, mentre è rimasta stabile quella sulla propria condizione economica personale, che è esattamente il contrario che, di quello che noi abbiamo visto praticamente da oltre un anno a questa parte. Cioè, la situazione, prima diciamo la condizione personale non era valutata in maniera eccellente, però c'era grande fiducia nella ripresa del paese. Adesso la condizione personale è vista stabile, o almeno stabilizzata, e tuttavia c'è timore per l'andamento del mercato del lavoro e per le condizioni economiche future del paese. Questo è un dato sicuramente interessante, come se stesse aumentando una insicurezza di fondo, esatto, nei consumatori rispetto al contesto ambientale. Tant'è vero che io questo aspetto qua l'ho usato per commentare sui quotidiani, per cui scrivo il dato, perché altrimenti troppo nel dettaglio tecnico abbiamo fatto un po' qui, i direttori generalisti te lo cestinano perché non ti consentono di entrare nel dettaglio, e secondo me invece ha la sua utilità, perché bisognerebbe darsi un programma per cui l'informazione, anche quella generalista, commenta i dati, mica bisogna imporli, però bisogna offrirli al lettore, all'ascoltatore, in maniera da capire, perché altrimenti l'effetto è del classico, perdonatemi, direttore generalista che mi chiama e fa: ma come si spiega sta cosa? Ma prima più, poi meno, non ci si capisce niente, queste cose non valgono niente. No, invece non è vero, no? Bisogna spiegarle, certo, come tentiamo di farlo. E io ho commentato questo particolare aspetto dell'arretramento della fiducia delle famiglie, del sentimento delle famiglie sulla componente pubblica, sì, dicendo la politica su questo si dovrebbe interrogare. Perché c'è un cambio di marcia? Questa non è un nesso casuale, non è però la mia opinione, il segnale per rassicurare questo inizio di caduta sulle condizioni generali del paese, della fiducia della famiglia, è: servono interventi strutturali universali, non più discrezionali come platea, a tempo. Passaggio dal bonus agli interventi strutturali fiscali inizia a vedersi in questa modificazione però, pessimista dell'atteggiamento delle famiglie. Momento in cui, nel momento in cui abbiamo margini in calo dal punto di vista dell'industria e del commercio in generale, le famiglie hanno una ripercussione perché le aziende stanno ricominciando un ciclo di tagli di spese. E attenzione, noi non possiamo contare sul traino del commercio, della domanda estera e tagli, nei prossimi 2-3 trimestri, per come vanno le cose al mondo. Inevitabilmente le aziende cominciano a pensare a delle fasi di ristrutturazione, perché se tu hai margini più bassi da qualche parte devi recuperarli. Non solo, ma ci troveremo anche con della tasse in meno, perché poi se le aziende fanno meno utili, che se ne pensi, l'IRAP continui a pagarla, ma l'IRES no. Se le aziende fanno meno utili, sono le aziende alla fine che attraverso i dipendenti o direttamente pagano le tasse, non... sì tra l'altro io volevo, diciamo, integrando quello che diceva prima Carlo Alberto, è vero che c'è una forte pressione deflazionistica e di disintermediazione dell'e-commerce sul commercio tradizionale, anche se poi non è ancora arrivata ad esempio agli alimentari o gli acquisti ad alta frequenza. Però alcuni indicatori, se noi guardiamo gli indicatori simili, quindi l'indice dei direttori acquisti in altri paesi europei, non sono tutti, anzi praticamente nessuno è in territorio di contrazione. Quindi c'è qualcosa di peculiare all'Italia, al di là del metafenomeno, diciamo, della disintermediazione dell'e-commerce. C'è una criticità. Se voi siete d'accordo, secondo me vale la pena di mettere nelle prossime trasmissioni una bella riflessione strutturale su questa questione qua della distribuzione italiana, perché questo è un vero problema. Ed è anche molto affascinante per chi si occupa di modelli organizzativi e digitale applicato a queste cose. Da persona un po' meno tecnica di voi, non è che con le materie prime in calo e tutto in calo, i direttori acquisti sono anche un po' in aspettativa e si aspettano ridurre le scorte. La caratteristica del domanda settore voce alta, consumi e distribuzione italiano rispetto agli altri, senso spiegarlo. Se tu guardi la componente, ad esempio, dell'indice market dei direttori acquisti, nella componente della marginalità, La vedono sofferente. Quindi anche che tu hai un calo dei prezzi di acquisto a monte e vai a traslarlo a valle, comunque hai delle pressioni tue proprie che ti danneggiano la redditività. Quindi io voto per questa mozione aprire una finestra sulla grande distribuzione con qualche esperto. Alcuni di noi strutturalmente si occupano di queste cose perché magari cooperano con gruppi di grande distribuzione. Carlo Alberto, come sempre, c'ha anche una visione generale di come bisogna poi oramai utilizzare le nuove tecniche di comunicazione per organizzare banalizzare la domanda anche in questo senso qua, e c'è tutto un discorso interessante sugli eccessi di tipo finanziario sull'immobiliare dei grandi centri commerciali e così via, e come al solito siamo andati lunghi. Volevo dire ai nostri ascoltatori che io sorrido molto leggendo sul Messaggero questa mattina che le battute, anzi l'annuncio che non avremo più Equitalia, continueremo ad avere le cartelle che saranno attribuite all'Agenzia delle Entrate, si deve al fatto che anche il Presidente del Consiglio ha ricevuto una cartella esattoriale perché si l'ha dimenticato una multa di 3 anni fa. C'è un racconto molto sapido che trovate sul Messaggero più che sugli altri quotidiani di come in Giappone a un certo punto per il G7 il Presidente del Consiglio sbotta e racconta ai giornalisti: questo è una cosa che non mi dovevano fare perché io me l'ero dimenticata, 2000 euro di cartella, basta con Equitalia. Poi il suo portavoce gli tira la giacchetta di fronte ai giornalisti e dice: sì, forse era meglio che non lo dicessi. Però è così, e quindi anche il Presidente del Consiglio si dimentica di pagare le multe, come capita a noi tutti, e non per questo è un evasore. Però mi fa piacere che anche lui si renda conto, tocca con mano, che insomma non siamo entrati nel paradiso fiscale. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci tornati qua in diretta, cari ascoltatori, in una Italia che al di là delle tante chiacchiere della politica, siamo tutti concentrati ovviamente come operatori dell'informazione, come cittadini nel turno amministrativo che viene tra poco. Questo spegne l'attenzione su alcune questioni fondamentali. Per esempio, questa settimana si è capito chiaramente che in una partita importante per il recupero del gap del nostro paese su un terreno, quello digitale, della cavatura del paese, la banda larga, tutta la mega operazione annunciata da Palazzo Chigi sull'open fiber dell'Enel. Io avevo immediatamente scritto un articolo dicendo: ci sono molti problemi però regolatori da chiarire. Nel frattempo le autorità hanno fatto il loro, cioè le hanno chiarite, però era volto a prendersi Metro Web a condizioni neanche particolarmente più finanziariamente attrattive di quelle offerte da Telecom Italia. Però su questo la stampa è molto distratta, cioè non vede quelli che a me sembrano problemi molto rilevanti, perché poi hanno un impatto sull'evoluzione di quella che sarà l'offerta, ma anche la domanda, visto che noi siamo in un paese a bassa domanda digitale in molte parti d'Italia. Io credo che il nostro mestiere di informazione economica e finanziaria dovremmo farlo con tutti i fari accesi. Vedo una grande distrazione in corso, e a questo proposito, a proposito di informazione, cerchiamo di approfondire adesso un po' la questione delle due offerte che si affrontano in campo per RCS, cioè per il gruppo editoriale, che per anni, negli anni alle nostre spalle, mi prendo la responsabilità di quello che dico, ha rappresentato quella dissipazione, distruzione di valore consentita dalla sua eterogenea compagine di soci privati, la contraddizione di addietro del diritto loro di criticare il mondo pubblico, perché hanno, come evidente, affidato la gestione di quel gruppo a chi anni fa ha fatto acquisizioni a prezzi rovinosamente elevati e senza riscontro rispetto a ciò che davvero potevano portare al gruppo, con prezzi, accade anche nel sole 24 ore questa cosa, ecco, le stesse persone sui cui valori di acquisto così elevati c'è il fondato sospetto addirittura che qualcuno abbia fatto affari privati, scusatemi. Tutto questo poi ha portato a distruzione di valore e a manco per idea mai realizzare neanche un decimo degli utili e dei multipli che quelle acquisizioni avevano portato. Tutto questo nel gruppo RCS si è aggiunto però per anni all'incapacità di sapere fare punto e a capo, perché le responsabilità di chi aveva nominato quei manager erano relative a persone troppo importanti in un mondo relazionale, di capitalismo relazionale, per potersi permettere davvero di farne un bilancio, di fare punto a capo. Questa è la storia alle nostre spalle di un gruppo che con oltre 1 miliardo di fatturato ha dei numeri di margini sui quali è meglio fare un colpo di tosse, per così dire, e malgrado le successive ristrutturazioni del debito con le banche, ci sono due offerte in campo: da una parte quella di Cairo, l'editore della Sette, dall'altra con Intesa dietro, Banca Intesa che ha sollecitato questo sviluppo dicendo così sblocchiamo questa situazione. Io, devo dire la verità, ho battuto le mani a questa decisione di Intesa, anche spiegata poi dal professor Bazzoli. Dall'altra parte Mediobanca, che insieme a quattro soci e soprattutto a soldi aggiuntivi liquidi di Investitalia di Bonomi, ha fatto una offerta non per carta, quindi non OPS, ma di OPA. Allora, per capire meglio se siamo in presenza di uno scontro tra poteri o meglio tardi che mai del ritorno di RCS al diritto delle imprese editoriali italiane di poter parlare con qualche buon argomento per criticare i conti degli altri, cioè con imprenditori veri, capaci di concentrarsi nella trasformazione dell'offerta, cioè del modello multidigitale delle grandi imprese di comunicazione. Abbiamo con noi Massimo Mucchetti, che io molto ringrazio, che non solo ha l'esperienza di ex vice direttore e anche critico con i suoi azionisti del Corriere della Sera, ma adesso è presidente della Commissione Industria al Senato e quindi può unire, per così dire, il pubblico e il privato. Grazie di essere con noi, Massimo. Buongiorno, grazie a te, Oscar. Non ti chiedo chi tifi, ti chiedo di aiutarci a fare i conti, perché tu hai scritto tre articoli irti di numeri per dare una risposta a chi ci ascolta se siamo in presenza di un nuovo atto della stessa commedia o di uno sblocco, e in questo caso perché. Ma io credo che la partita si risolverà, come è normale che sia, nelle prossime settimane, ed è la partita fra un'offerta di carattere sostanzialmente finanziario, quale quella, un'offerta d'acquisto, quale quella presentata da Mediobanca, Invest Industrial, cioè Andrea Bonomi, Unipol e Pirelli, e il quarto che adesso non mi viene in mente, no? E questa è partita. L'altra è l'offerta di Cairo, che è un editore puro, anzi è forse l'unico editore puro che è rimasto in Italia. Aggiungo, la prima offerta di natura finanziaria è fatta da persone che di editoria non, come hanno dimostrato nel tempo, da persone, più che persone, da società che di editoria, come ha ricordato tu, hanno dimostrato di capirne poco. E mentre l'altra è di un editore puro, un self-made man, che in 20 anni ha costruito un ottimo gruppo editoriale, attivo nel settore dei periodici, della raccolta, della pubblicità, dei libri. Onestamente nei libri poca cosa, ma non è grave, nel senso che l'RCS i libri li aveva, li ha venduti per turare le falle di gestioni fallimentari. E in più ha risanato in un anno la Sette, che era un pozzo senza fondo, su cui Telecom aveva, non era riuscito per anni e anni, mai, no, beh, su cui il gestore alimentare della Sette è stato promosso dal governo a direttore generale della RAI, perché in Italia accadono anche queste cose. Sì. Se solo ci allarghiamo dal settore privato al settore pubblico. Quindi l'offerta di Cairo è apparentemente più bassa, nominalmente più bassa, perché valorizzava, quando è stata presentata, il titolo RCS 51 centesimi. L'offerta dei soliti noti lo valorizza a 70. Però qual è la differenza? Che Cairo propone associatevi a me, quindi non è che uscite dal Corriere, non è che uscite dalla Gazzetta dello Sport, dall'RCS, voi entrate nella società che li controllerà e assieme faremo tanta bella strada, dice lui, poi a vedere se si riesce. Comunque già adesso il valore è aumentato dell'offerta da 51 a 58, segno che il mercato qualche credibilità all'offerta di Cairo la dà. No, viceversa, l'offerta diciamo dei 70 centesimi è prendi i soldi e scappa, e qui onestamente ci sono degli aspetti un po' surreali, no? Perché questa è una valorizzazione che recherebbe a chi la promuove un vantaggio di un paio di milioni sul valore di carico delle proprie partecipazioni, quindi una cosa ridicola. E per chi è entrato nell'RCS nei tempi passati, quindi ha pagato l'azione 1, 2 euro, 3 euro a seconda, uscire a 0,58 ma rientrando nella Cairo, o uscire a 0,70 per sempre, insomma, forse cristallizzare una perdita, no? Sì, 0,70. Ecco, mentre dall'altra parte poi hai ragionevoli speranze di come dire, avere un upside, di avere un miglioramento. Cairo ha dimostrato che questo, mentre RCS, da quando fece fuori Colao, perché non dimentichiamo che i fautori dell'OP, tranne Bonomi che è un nuovo rispetto a questi, sono soggetti che fecero fuori il più grande manager italiano in questo momento, dieci anni fa, Vittorio Colao, che immediatamente andò a Vodafone, che allora era grande 30 volte l'RCS. Adesso non voglio dire quanto, perché deve essere un multiplo di 30, no? E è là ancora il numero uno indiscusso di grande successo. E qui abbiamo avuto un susseguirsi di amministratori delegati che hanno fatto disastri. In questi 10 anni la perdita accumulata dopo il primo anno di utili derivanti in coda dalla gestione di Colao hanno accumulato esattamente 1.200.000.000 di perdite. Senza pagare un dividendo dal 2008, mentre la Cairo Communications si è costruita passo dopo passo, come fanno i veri imprenditori, e distribuendo 260-270 milioni di dividendi. Quindi di che stiamo a parlare? Aspetta un secondo, c'è Carlo Alberto che aveva un'obiezione. Volevo spostare il tema dal prezzo alle condizioni industriali. Per fare un'azienda editoriale sostenibile servono 4 condizioni, 2 lato offerta e 2 lato domanda. Sul lato offerta servono contenuti digitali e contenuti televisivi video. Sul lato domanda bisogna avere un'utenza molto ben profilata e avere un modello distributivo della pubblicità efficiente a basso costo. Quindi con questi 4 criteri, però perdonami, vince Cairo mani basse? Questi 4 criteri, diciamo, Cairo ha almeno 3 di questi 4 criteri ben fatti. In Italia ce li ha ultimamente solo Mondadori, che ha comprato pochi giorni fa anche Banzai Digital, quindi è diventato il più grande editore digitale italiano, e ovviamente a Mediaset dall'altra parte. RCS non ne ha neanche uno, non solo, ma siamo rimasti a modello organizzativo dei tempi di Massimo, cioè un giornalista, un pezzo al giorno, una pagina per ogni argomento, cioè un modello editoriale 800esco. Mi spiace, ma serve ben altro che un'OPA per fare un modello editoriale. Oggi, se guardo quello, la più grande OPA degli ultimi anni, che è stato Washington Post, Jeff Bezos, ha ribaltato l'azienda, pur facendo un altro mestiere. Oggi ci sono più cyborg a scrivere articoli che esseri umani, giusto per farvi capire il livello di robotizzazione. È così. Anzi, c'è una notizia che cambia a seconda della profilazione del cliente a cui rivolta. Esatto. Ecco, e naturalmente questo pone anche problemi di deontologia, di correttezza e trasparenza. Però è così. Oltretutto, gli on the top, la raccolta la fanno attraverso l'organizzazione della domanda digitale profilata da annetti a annetti. Non è proprio una novità del futuro. Da noi la profilazione la fanno esseri umani in maniera artigianale, tanto amore, con le loro manine d'oro, diciamo. Allora, abbiamo un minuto di traffico e poi torniamo, perché io voglio sapere da Massimo se è un caso, una necessità che dei soci attuali, che si è dimenticato, come associati alla proposta Mediobanca, si è dimenticato esattamente della Valle, non proprio l'ultimo che ha sollevato problemi su RCS. Sicuramente è un caso, ma torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci tornati, cari ascoltatori, eccoci tornati in diretta, noi con Pare di Conti della Belva. Abbiamo come ospite stamattina Massimo Mucchetti. Mi pare di aver capito che nella sintesi, numeri alla mano, ma soprattutto identità, profili e risultati della storia alla mano, tra le due compagini che si confrontano, Cairo da una parte, dall'altra Mediobanca più 4 soci della vecchia compagine di RCS, dovessi dire l'impressione che ho avuto, stante che sono d'accordo alla prima e all'ultima parola con i giudizi di Massimo Mucchetti, è che Mediobanca ha organizzato la contro-OPA più che altro per tirare un po' sul prezzo, perché non credo che abbia delle, per così dire, qualità, almeno non le annunciate, che entrino minimamente con ciò che RCS serve, e ce lo ha ricordato Carlo Alberto, per davvero poi fare una svolta che avrebbe potuto fare anni e anni fa, perché 10 anni fa, quando hanno cacciato via Colao, facevano più di 200 milioni di utili l'anno, a santo Dio benedetto. Posso dire una cosa rapidissima? Ma questo schema, cioè dell'accordata che salta fuori dal nulla, mette soldi veri, eccetera, non hanno nessuna... Senza mettersi d'accordo col consiglio di amministrazione. Ecco, non hanno nessuna idea di turnaround manageriale almeno non è emersa, a differenza del piano di Cairo. Ma a voi non ricorda vagamente Atlante questa cosa? vabbè, allora Massimo, che dici? Ma io dico che prima il nome di Diego Della Valle l'avevo lasciato apposta fuori perché merita un discorso particolare e speravo che tu mi alzassi la palla. Grazie. Di tutta, diciamo, coloro i quali stanno lavorando attorno a Mediobanca, a parte Cairo, parlo della cordata, Della Valle è l'unico che smette i soldi suoi, perché tutti gli altri, come dire, usano i soldi degli altri, no? Sono o sono manager o sono imprenditori che stanno in capo a piramidi societarie estremamente lunghe, no? Sì. Devo dire che Diego Della Valle, che su altre partite ha avuto l'occhio lungo e ha investito molto bene, in questa vicenda, come dire, forse per entrare, stiamo parlando di un po' di anni fa, nel cosiddetto salotto buono di Milano, ha sacrificato 150-200 milioni di euro. Solo Rotelli, che non c'è più, lo ha battuto come di risorse dilapidate per pagare quel biglietto. Se posso dire, conoscendo entrambi, Della Valle è un imprenditore puro, e lo dico con grande rispetto, Rotelli è un imprenditore trattino, è stato un imprenditore trattino intellettuale. Sì, verissimo. Era, anzi, in cuor suo probabilmente si sentiva più intellettuale, studioso di diritto, e quindi lui era onestamente davvero innamorato dell'editoria in quanto tale. Gli ha detto male, per gli eredi è stato un vero falò di risorse, però, però gli eredi hanno ereditato tante altre cose. Esatto. Agli eredi va sempre bene. Nei paesi molto avanzati le tasse sull'eredità sono tali da consentire a tutti. Massimo, vorrei smentire il fatto che per fare l'editore serve essere dei grandi intellettuali. No, ma lui non ha detto questo. No. Noi stiamo spiegando ai nostri ascoltatori che non sono tenuti a conoscere Rotelli, che Rotelli aveva un profilo personale di quel tipo là. Assolutamente. Gli editori nascono come tipografi nel Settecento. Esatto. Torniamo a Della Valle. Torniamo a Della Valle. Invece Diego Della Valle, che ci ha messo i soldi suoi, io non capisco perché non abbia sposato l'altra un parte, suo simile come lui, e invece continui ad accompagnarsi a potentati finanziari verso i quali in passato, anche recente, in più di un'occasione, ha avuto parole durissime. Ha avuto parole durissime sulla Fiat, ha avuto parole durissime su Mediobanca e così via. Per cui onestamente mi risulta abbastanza incomprensibile. Detto questo, per l'informazione dei nostri ascoltatori, va ricordato che la cordata Mediobanca Bonomi scommette, e non si sa bene, se sull'attuale amministratore delegato, la dottoressa Laura Cioli, e il piano industriale che ha presentato, o su un piano industriale diverso fatto da Bonomi. Aggiungo che Bonomi è stato ed è un bravo investitore nel settore del private equity, ma come dice la parola, il private equity compra per rivendere. C'è chi lo fa in modo speculativo e tende a rivendere nel giro di 3-4 anni, c'è chi, come è capitato a Bonomi, tende a fare un lavoro anche più lungo e a rivendere dopo un periodo di tempo più robusto. Però voglio dire, rivendere deve farlo perché è nella natura, nell'identità e nella natura, no? Ecco. E oltretutto è anche tenuto, commette la propria esistenza ed è anche professionale, tenuto e giudicato sui mercati, perché insomma Investor Astral raccoglie capitale di tipo mondiale, globale. Raccoglie facilmente capitale, esatto, perché è stata gestita bene, ma gestire però bene deve avere dei tassi di ritorno del capitale impiegato che significherebbero, applicati alla condizione di RCS oggi, operazioni radicali per realizzarli, perché sennò verrebbe poi giudicato male. Allora, io penso che sarei veramente curioso di discutere questo piano partendo da un dato di fatto, che 3 mesi prima il professor Bazzoli e Micichè, e insomma il vertice d'Intesa, aveva offerto l'ingresso in RCS più o meno per una partecipazione analoga a quella che avrà investito in Dazio, se dovesse andare bene la sua OPA, ha valori che erano meno della metà. Meno della metà, e la risposta fu e non no. Solo, ma valori messi capisce. Dentro in aumento di capitale. Ma allora, la mia opinione, ma la butto lì, potenza di Nagel, perché c'è la partita Unicredit aperta, perché parecchi di quelli che si tira fuori dietro degli attuali azionisti e RCS sono interessati anche a quella partita. Posso sbagliare, ma intanto grazie a Massimo Mucchetti per averci dato questa onestissima e documentatissima opinione. E viva il fatto che ci sia gente capace ancora di parlare in maniera così chiara e aperta su questi temi. Torniamo dopo GR. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Dinamicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qua in diretta, cari amici, anzi compari dei Conti della Belva, qua in studio, oltre a Oscar Giannino, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Mentre mi sa che probabilmente non c'è collegato telefonicamente Carlo Alberto. È tornato a lavorare. Ma esatto. No, tornato a fare pin, però torna. Io volevo annunciare ai nostri ascoltatori, che sicuramente molti dei quali non hanno ancora letto i giornali, il grande evento che il Fatto Quotidiano annuncia. È un grande evento destinato a scuotere non solo il mondo dello spettacolo e della comunicazione, come l'avete sentito al GR, la scelta di D'Alessio del cantore melodico contro la SIAE. Io sono molto contento, perché è la mia battaglia personale e di tanti altri. Stiamo erodendo un monopolio inefficiente che non ha più senso. Ma è una notizia politica, perché in un'intervista al Fatto Quotidiano Sabrina Ferilli, quindi una delle colonne identitarie nel mondo della cultura, del cinema, del PD, annuncia mollo il PD e voto i 5 Stelle, voto la Raggi, ragazza pulita, il mio PD non lo riconosco più. Sto leggendo testualmente dall'intervista: il renzismo ci invita ad abdicare ai nostri diritti, addirittura. Meno gente vota, meglio sta. Allora, come evidente, le parole di Bersani questa settimana, che erano parole molto pesanti nei confronti di Renzi, parole molto pesanti perché indicano che la strategia è diventata davvero quello di farlo perdere al referendum, parliamoci chiaro, perché le richieste era di tornare a modificare l'Italia, tutte cose che un leader del PD sa bene quanto lungo sia stato il confronto nei gruppi parlamentari, però questa volta si mobilita anche l'icona di quella parte del PD. E quindi vedremo che cosa questo vorrà dire. Sto scherzando un pochino ironicamente, però questa cosa ha la sua importanza. Sì. Scherzo un po', perché come avete visto in Rai arriva Cantone nella Rai di Campo dell'Orto, gli appalti, sappiamo che il responsabile audit continua a mettere per iscritto che non è per niente cambiata l'opacità delle gare degli appalti, eppure ci si occupa del dress code delle conduttrici e delle giornalisti. Forse sarebbe meglio occuparsi di altre faccende, per così dire. Ma i nostri ascoltatori negli SMS che dicono, ognuno si occupa delle cose di cui sa. Ma dai, su. No. Ah, questo è un pesantissimo schiaffo a dare a Bignardi. Fate i nomi, però, quando fate queste cose qua. No, io, cioè, no, lei, il dress code di Daria Bignardi, la direttrice di Rai 3, da direttrice di Rai 3, come tutte le donne, è esperta di dress code. Daria Bignardi è esperta non solo di questo. Il problema è che, secondo me, la Rai continua a essere un, cioè, i problemi di gestione della Rai con questa raffica di nomine esterne, secondo me, sono aggravati invece che alleviate. Che dicono i nostri ascoltatori sugli SMS, cari compari? Dal versante degli SMS. Non moltissimo, c'è il solito rilievo. Il problema dell'Italia è la mancanza di fiducia e il piagnisteo continuo, e voi giornalisti siete tra i responsabili di questa situazione. Il New Deal fu basato su un fenomeno di fiducia generalizzata nel riuscire a farcela. Qui chi prova a instillare un po' di fiducia viene ridicolizzato da gente come voi, campioni del mondo sempre a parole. Esimio signore, io nella vita non faccio il giornalista, faccio altro, bene, male, quel che è. Ho una visione di un certo tipo di quello che succede in questo paese. Renato Cifarelli fa l'imprenditore di successo, Oscar Giannino fa il giornalista, ma capisce più lui di un sacco di fenomeni, diciamo, che guidano testate, dicono altre minchiate quotidianamente, quindi ha un certo polso. Carlo Alberto Carnevale Maffè è persona di levatura internazionale per la sua visione del mondo. Io qui le parole, chiaramente noi lavoriamo con le parole ogni sabato, però magari non siamo esattamente dei parolai, no? E poi io il parallelo col New Deal mi sembra un po' come la corazzata Potionkin, diciamo, no? Io capisco essere fiduciosi e quant'altro, però lasci perdere, guardi, soprattutto l'accusa di disfattismo andava di moda un bel po' di anni fa. Alla fine, noi crediamo, chi è che diceva Deming? Crediamo in Dio, tutti gli altri devono portare i numeri. Certo. Ci sono anche quelli che non credono in Dio, però continuano a chiedere che gli altri portino i numeri. Esatto. Io sono tra quelli. Caro ascoltatore, poi interrogarsi proprio sulle diverse componenti della fiducia è l'esatto opposto di quello che dice lei. Serve esattamente a capire cosa la porta su e cosa no. Invece nel canale WhatsApp, canale WhatsApp c'è una persona che se la prende con Mario, ma Mario se la prendono quasi tutti sempre con Mario. Per questo le avevo dati a te, così non li leggeva lui. Lui ha le spalle larghe. No, e che parla sul discorso di Di Maio, che Mario aveva accennato sul discorso di Banca d'Italia. E questa persona ci dice: Banca di Stato sì, ma gestita da chi? Allora, lo dico io perché Oscar ormai, se no, poveretto, qualche giorno si trova qualche problema. Siamo in un periodo in cui la Banca d'Italia è gestita troppo dalla politica, perché è una delle basi su cui si basano le banche di Stato, ma non banca di Stato, ma banche centrali, è la separazione. Perché se noi abbiamo chi una volta stampava moneta, ma oggi controlla le banche e fa tutta un'altra serie di attività, che è sottoposta allo Stato, non funziona. Perché lo Stato dovrebbe essere basato sulla divisione dei poteri e sul contraltare dei diversi poteri. E questo rischio diventa ancora tanto più forte quando le politiche monetarie sono state costrette o comunque indotte a invadere in maniera sostitutiva il terreno delle politiche fiscali, perché questo il QE è questa roba qua, le politiche monetarie non ortodosse servono a comprare tempo perché le politiche fiscali dei governi sono troppo diluite nel tempo, sbagliate negli obiettivi. E a maggior ragione poi, visto che adesso vedo che anche il sole si è innamorato dell'helicopter money, cioè stiamo diffondendo questa idea. Io ci andrei un po' più piano, cari autorevolissimi colleghi del Sole 24 Ore, a scrivere tutta sta caterva di articoli dicendo le banche centrali devono accreditare direttamente i soldi ai consumatori. Sapete quanto me, meglio di me probabilmente, che non è proprio uno scherzetto. Andateci un po' più piano, perché altrimenti, ragazzi, a proposito di helicopter money, c'era una coda che citiamo perché così non ci dicono che non lo facciamo. Mia figlia, questo è sempre il messaggio della signora, mia figlia sta aprendo una piccola azienda grazie al fondo del movimento, sempre parliamo del Movimento 5 Stelle, quello alimentato grazie e del quale vi guardate bene dal farne parola. Noi siamo qua e siamo sempre aperti a qualsiasi innovazione che ci sia. No, ma questo se è giusto, c'è delle stata anche di questa settimana del fondo dei 5 Stelle. No, il dato di fatto è che loro lo alimentano con una parte. Questo va riconosciuto. Siamo qua per raccontarlo. Questo c'è qualche bravo imprenditore sentiamo qualche telefonata. Marianna, dalla provincia di Trento. Buongiorno. Buongiorno Marianna. Del rumore di sottofondo, ma devo anche fare la mamma e la donna di casa. E ci mancherebbe. Senta, io volevo solo esternare un pensiero magari banale e poco intelligente, che è quello che secondo me il mondo dell'imprenditoria, dell'editoria, dal mio punto di vista è molto importante anche per le nuove generazioni, perché di fatto lei, piuttosto che altri professionisti, educano i ragazzi alla cittadinanza attiva, ma anche li educano anche alla elaborazione di un'opinione personale, che può essere anche quella critica, però una critica costruttiva, anche ironizzando. Anche ironizzando, anche ironizzando, certo. Marianna, cioè, mi attribuisce a me e ai giornalisti un'importanza che secondo me era quella che tradizionalmente veniva insegnata ai giornalisti. Di fatto io non l'ho vista praticata nel corso della mia carriera professionale, l'ho vista più violata che praticata. E non è che voglia fare il santo, però voglio dire, io ho avuto un licenziamento disciplinare da un'impresa editoriale perché volevo parlare di due banche e non mi ero azzittito quando mi hanno detto stai zitto e basta e non rompere le scatole perché sono banche con cui abbiamo affidamenti, per dire la verità. E a quel punto mi sono fatto cacciare, sono andato in disoccupazione e così via. Però non è che bisogna essere eroi, bisogna pretendere di essere eroi che diventano disoccupati a tutti, se no è finito. Ma il sistema che ho visto io era un sistema che funzionava così. Nell'economia e nella finanza questa resta la prassi, le famose quattro liste di cui è meglio non parlare, primo i tuoi editori e questo ci sta, le aziende non staccano la sola, secondo clienti e fornitori dei tuoi editori e qua inizia a diventare un po' più vasto il mondo, terzo le banche con cui lavorano i tuoi editori, clienti e fornitori dei tuoi editori, e in un paese di multiaffidamento significa praticamente quasi l'intero sistema bancario, quarto quando le cose vanno male quelli con cui c'è la maggiore posizione del credito, a quel punto era più facile capire di chi si poteva parlare piuttosto che quelli di cui non si poteva parlare. Io sono nato in un mondo così nell'informazione economica finanziaria, quindi cara ascoltatrice magari poter dare l'esempio. Tutte le volte ci si espone a dire sei un pessimista, sei un rompiscatole, sei contro il governo, sei contro il tuo editore, sei contro questa o quella banca. Se uno vuole guardare i numeri deve insegnare a chi ascolta, deve proporre a chi ascolta di giudicare sui numeri, sul suo risparmio, lavoro eccetera eccetera, e di farlo a prescindere dalle reti di relazione, però è molto complicato in economia, questo glielo posso dire. Giorgio da Como, Giorgio prego. Sì, buongiorno, io vorrei parlare brevissimamente di Fastweb, Telecom ed Enel. Ho lavorato 40 anni nel mondo delle telecomunicazioni, in laboratori di progetto, quindi conosco perfettamente la rete Telecom. Sì. Dopo la scellerata privatizzazione, noi oggi abbiamo... Scellerata per i modi o perché lei è un nostalgico della STET di Pascale? No, scellerata perché poi dopo Telecom, passando di mano in mano, ha ridotto sempre di più i suoi investimenti nell'innovazione, in questo senso. Io abito a Como. Qui nella profonda Brianza ci sono tantissimi paesi a 10-15 km di Como che non hanno la banda larga. Riescono ad avere al massimo 256 kilobit. Dobbiamo rivolgerci al satellite o al 3G laddove c'è, perché in molti paesi la TIM non porta neanche il 3G, tanto per dirla chiara, con i problemi di meteo che ci sono. Renato Cifarelli conferma qua a fianco nella zona in cui opera lei. Quindi fin qua siamo a posto. Abito anch'io in un paesino, quindi sono nella stessa condizione. Se Enel, che ha i contatori elettronici ormai in quasi tutte le case, riuscisse a portarci la banda larga con la sua linea così capillare, io sarei felicissimo. Punto. Se lei è del mestiere, non mi può fare l'aldilà. Questo me lo può dire una persona che non è del mestiere. Se lei è del mestiere, e lei lo è, mi deve dire sì, a patto che l'offerta di Enel non venga sussidiata da ciò che fa offrendo elettricità, perché altrimenti tutti i concorrenti di Telecom e Telecom stessa diventano vittima di un raggiro di sussidio incrociato. B, a patto che Open Fiber sia una divisione contabilizzata diversamente. C, a patto che dica a chi coinvolge venga nell'avventura finanziaria di Open Fiber, non sto dicendo in quella industriale, venga sottoposto alle stesse condizioni. Lei del mestiere sa che invece l'annuncio è stato fatto senza dire nulla su tutto questo, tant'è che io non voglio discutere a livello finanziario perché io non sono un economista, sulle regole di mercato sto parlando, delle regole della concorrenza, siamo d'accordo, io sono un tecnico, però comunque se Enel riuscisse a sopperire a una oggettiva carenza di quello che volta era il monopolista nazionale, ragazzi. Io ho l'impressione che io non credo al fatto che Enel cabli 250 città. Credo che invece servisse a fare esattamente quello che ha ottenuto. In una settimana a strappare Metroweb con un'offerta finanziariamente inferiore a quella di Telecom Italia. E per gli azionisti di Telecom Italia, che già le hanno viste tante, come giustamente dice lei, sono d'accordo, in questi anni, beccarsi adesso anche un colosso a controllo pubblico che gli leva Metroweb offrendo meno soldi, a me non piace molto, dire la verità. Per esempio Enel racconta, noi automaticamente lo possiamo fare a costi più bassi perché usiamo i contatori digitali. Peccato che chi conosca la rete elettrica sa che il contatore digitale mica è nelle case, Il contatore digitale spesso sta a una distanza superiore o uguale a quella dell'armadio Telecom. Questo significa che c'è un costo aggiuntivo per portare la fibra a banda larga all'utente finale, stiamo parlando di famiglia in questo caso, e non viene detto, quindi vuol dire che c'è una parte più sussidiata maggiore di quello che io immagino ancora, perché non ho i numeri per farlo. Quindi io sono d'accordo con lei, bisogna accelerare. Quello che mi interessa è non riportare tutto nelle mani dello Stato, perché nelle mani dello Stato non ha fatto un gran bel risultato. Questa è la mia opinione finale. Io non sono un nostalgico della STET di Pascal, che, ricordiamocelo tutto, aveva promesso con Socrate di cablare l'Italia 25 anni fa, e naturalmente non abbiamo visto nulla di tutto quello. Allora, abbiamo tra un minuto e poi andiamo, torniamo con Giacomo che ci chiama dalla provincia di Varese. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta qui con i compari dei conti della belva. Ancora un ascoltatore abbiamo collegato, e ci scusi perché l'abbiamo tenuto da quando l'abbiamo chiamato, perché funziona così, per chi non lo sapesse: quando io dico abbiamo chiamato, molti a casa che non provano a telefonare o non sono interessati dicono ma allora scegliete i vostri amici per intervenire. No, funziona così, cari ascoltatori, se però siete in ascolto da anni Radio 24 lo dovreste sapere, ma magari c'è gente nuova. Allora, se quando chiamate all'800 24 00 24, una gentile signorina del centralino prende nota di chi siete, da dove chiamate, cosa volete dire e in che trasmissione diretta intervenite, punto. Dopodiché, siccome noi abbiamo risorse limitate per accrescere l'efficienza, attacca, risponde ad altri, e nel frattempo poi venite richiamati, non scegliendoli da me. Non è il conduttore che sceglie la persona richiamata o il tema, e quindi solo quelli che fanno comodo utile, è sempre la funzione esterna del centralino con l'assistente che richiama ascoltatori e ti ripropone in linea. E se tu sei bravo con i tuoi tempi, a quel punto, quando hai detto che vai con le telefonate, loro vengono per questo richiamati. Lo dico perché è fonte di equivoco in chi pensa che noi ci scegliamo gli argomenti, gli ascoltatori. No. Allora, Giacomo dalla provincia di Varese, eccoci qua, grazie. Buongiorno, confermo quanto da lei detto adesso. Esatto. Prima parlavate della grande distribuzione, sì. Io mi occupo di ristorazione nella provincia di Varese e come un bravo alunno ho fatto quello che fate di solito voi. Cosa ho fatto? Ho preso l'inventario per vedere l'inventario degli anni, per vedere se quello che dicevate voi era vero. E purtroppo l'inventario non vi dà ragione. Io potrei fare esempi di tantissimi prodotti che negli anni non sono diminuiti ma sono aumentati, per cui è come se il governo centrale dicesse noi tiriamo via le tasse per questo e poi il governo locale me l'aumenta, alla fine io pago sempre di più. Quindi se voi mi dite facciamo una lista di prodotti che secondo lei sono aumentati, io glieli elenco, vi faccio un esempio per tutti, l'energia. Io una volta compravo il pellet a 3,29 euro, adesso lo compro a 3,90 euro, secondo voi è diminuito o è aumentato? Perché è aumentata l'aliquota IVA sul pellet, giusto? Ascolti, ma se io la compro e poi faccio in detrazione, per me è un guadagno, se fosse aumentato. Quindi per me è il prezzo che aumenta. E le faccio l'esempio del pellet. Le faccio l'esempio di un pesce. Io compravo i calamari, compro in un negozio adeguato a questo, cioè la Metro, un prodotto che costava 4,29 euro, adesso lo pago 6 euro. È calato o è aumentato? Una cosa che è diminuita, e qui ci tengo a essere preciso, è un prodotto che è l'olio di arachide, ma è diminuito di poco. Per cui alla fine dell'anno io mi trovo con dei costi, con dei prezzi che non sono quanto dicevate voi. Sicuramente alcuni prodotti calano, sicuramente, ma sono periodi molto stretti, e io se faccio il conto dell'anno, del mese, dimmi voi quanto, non trovo questo guadagno. Io ci meno sempre di più. Alla fine dell'anno, e poi faccio l'ultimissimo esempio, poi sto zitto, mi rispondete voi. Voi chiedete ai signori della SIAE, se i giorni dell'anno sono tutti uguali, e vi faccio questo esempio. Se io faccio una festa questa sera, per festa intendo una serata danzante, mi fanno pagare un fisso che è X. Se io la stessa festa la faccio il 31 di dicembre, chissà per quale motivo il 31 di dicembre è un giorno particolare. Mm. Se io la faccio l'8 marzo è un giorno particolare. E quindi pago di più. Certo. E io, senza, come faccio? Cioè, no. Ditemi voi. Però, aspetti, adesso prego. Io do la parola a Mario. Però, attenzione, noi citavamo prima l'andamento di prezzi. Quei prezzi erano, per così dire, inglobati nei costi di acquisizione delle materie prime, del processo di lavorazione dei settori. Allora, i costi industriali in questo hanno il segno meno, menissimo, a seconda dei settori, quelli in cui pesano di più le commodities di un certo tipo piuttosto che di un altro, no? E questo è il segno meno. Cioè, per esempio, l'auto, per dirne una, l'auto che ha dato un contributo negativo, e lì si capisce, quantitativo rilevante al calo di fatturato. Ma perché? Perché l'auto in Italia però era reduce dalla bellezza di 30 mesi di crescita a doppia cifra. Allora, in quel caso però i costi di acquisizione sono veramente quelli industriali, sono veramente col segno meno, ma secco proprio. Allora, distinguiamo su andamento, il che significa paniere a quel punto, dei prezzi, dell'andamento dei prezzi al consumo invece. Comunque, sentiamo Mario. No, è la stessa, posso confermare lo stesso discorso. D'altro canto gli indici dei prezzi evidenziano la flessione, la pressione al ribasso, che magari, tra l'altro, a livello di mercato internazionale gli alimentari freschi sono in calo pluriennale. Esatto. Questo è proprio un dato di fatto, e quindi non saprei neanche io come replicare. I dati dell'indice dei direttori acquisti indicano pressione sui margini, ci sono compagnie della GDO che hanno oggettivamente dei problemi perché hanno un rapporto tra costi, segnatamente del personale, e ricavi che è aumentato col passare del tempo, e i costi sono aumentati anche per una politica probabilmente precedente di aumento, di sovraestensione della loro attività operativa. Quindi i dati sono questi, non è che si possa dire, se io vado a prendere, sì, lei mi fa l'esempio del pellet, mi fa l'esempio del pesce, io potrei contrapporle n altri esempi, e dopodiché si vede come funziona. L'evidenza è l'esempio che faceva lei della componente energetica. Abbiamo ragione tutti e due. No. Abbiamo ragione tutti e due. No, aspetti un secondo, scusi un secondo. No, per capire un fenomeno non è possibile che dice A è il contrario di A. Allora, l'andamento dei prezzi energetici, per quello che avviene sui mercati mondiali, è da tempo ormai lungo col segno meno, capisce? Allora, se poi la componente fiscale nel frattempo viene modificata, perché lo Stato ci rimetterebbe troppo e quindi compensa, per così dire, allora questo è il modo che noi dobbiamo spiegare alla gente. Non è che gli diciamo i prezzi stanno salendo, perché i prezzi in realtà di ciò di cui stiamo parlando, se parliamo di energia, stanno scendendo. Allora, il problema è come lo Stato, per così dire, mette un cuscinetto per fare meno attrito con i propri conti. Allora, in quel caso non è che avete ragione entrambi, perché non è così, se mi permette. Però noi siamo qua per spiegare l'essenziale. Vorrei solo, su questo, che lei mi dica sì o no, è che noi non contrabbandiamo l'idea, non è vero, ci raccontano che i prezzi scendono, ma non è vero, salendo e ci stanno ubriacando, perché non è così. Signor Gianni, ascolti, sì. Se lei e il signor di prima in parte dite la verità, ma io al fine dell'anno, quando tiro la linea, non trovo quello che dite voi, perché se io faccio l'esempio del fresco, alla fine dell'anno compro il fresco, posso comprare i lamponi, posso comprare l'insalata, posso comprare altre cose, ma se alla fine dell'anno i miei costi sono aumentati, non posso darvi ragione, anche se alcuni prodotti sono calati, perché io non posso fare il conto su un prodotto. Io guardo alla fine dell'anno e dico, io quest'anno posso dirle una cosa, scusi, perché in questo tutti gli indicatori dei prezzi praticati nella grande distribuzione italiana, tutti, guardi, tutti tranne wellness, pet food e al due categorie, sono tutti col segno meno. Lei è sicuro di avere delle catene ottimizzate di fornitura? Glielo chiedo proprio fuori dai denti, perché Ma la metro la conosce lei? No, ma se va alla metro... La metro la conosce lei? Sì, certo. Ecco, allora se lei conosce la metro, io a quella metro ci faccio delle battaglie furibonde, perché questi signori che gestiscono la metro pensano che la metro sia l'ultimo dei gesti che ci può essere in un paesino. Hanno i prezzi superiori. Ma cambiarli allora, però, guardi, perché io le ripeto, ho appena fatto una cosa per Vegé Deco, lo facevo per Auchan e Carrefour. Guardi, noi per mestiere guardiamo i bilanci e i prezzi che dicono di praticare, anzi, sono prezzi che loro respingono verso il basso grazie alle enormi promozioni che fanno, per non perdere in volume e uccidendo concorrenza sul valore, perché a quel punto incassano meno. E guardi che, voglio dire, settore per settore. Quindi, secondo me c'è anche qualche problema, che magari localmente e territorialmente c'è, perché mica la situazione è uguale in tutta Italia, in tutti i pezzi d'Italia. Comunque è una stata una telefonata che di cui la ringrazio, perché è molto interessante fare capire appunto come nascono anche le percezioni diverse su una questione come questa, i prezzi. Grazie quindi a Giacomo della provincia di Varese, torniamo dopo un minuto con Dario Stevanato e l'otto per mille, cari ascoltatori, per vedere se siete tutti contenti di mettere la firmetta con chi a favore per qualcuno o contro qualcun altro, ma soprattutto se non la mettete, tanto contate pure voi, questo è il bello. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta in questo sabato assolatissimo di 28 maggio, del 28 maggio. Però Oscar, il sabato non dici i santi? No, il sabato non dico i santi, perché io già ogni mattina devo trovarmi le battute, cioè, quindi il sabato mi considero in libera uscita, per così dire. E soprattutto perché a quest'ora, alle 10, quando cominciamo, non c'è la cosa mattutina, capisci? Io ci scherzo e ci rido. Poi oggi un Sant'Emilio che mi si presta un po' poco. Per ah, così ma li dire, sai in memoria. No, però guarda, ognuno si porta dietro la sua esperienza, per così dire, formativa. Allora, io ho avuto una mamma molto cattolica e di una credenza popolare che io ho combattuto per anni tra me e me. Mi sembrava la fede dei vinti, poi ho capito che non era così. Era una fede popolare che proprio in questo suo essere popolare però era profondissima ed era molto più ragionata di quanto mi sembrasse. Di questo culto e di questa fede, il culto dei santi era un pezzo fondamentale. Noi avevamo l'enorme calendario a parete, cioè mezza parte della parete della nostra non troppo grande abitazione era infatti occupata dal calendario coi santi, e la lettura dei santi era un piccolo pezzo di una cosa su cui bisogna passare. Caro mio, tu hai un'altra formazione, però a me per lungo tempo mi è sembrata una roba paganeggiante. Non è che abbia cambiato molto idea, perché è stato anche uno strumento usato come strumento di potere dalla Chiesa, però alla fine è diventato un pezzo inglobato con anche grandi capacità ironiche, perché io quando vedo i criteri di scelta, re, monarchi, potenti, banchieri, dico, certo, un santo in casa e così in cambio qualche soldarello in più. Insomma, ogni tempo ha avuto la sua ior nella Chiesa. Allora, a proposito di questo, 8 per 1000, cari ascoltatori, la scelta delle vostre per così dire donazioni. Sapete che ci sono tre canali nel nostro sistema tributario: c'è l'8 per 1000, c'è il 5 per 1000, c'è il 2 per 1000 con i partiti. Oggi parliamo dell'8 per 1000, l'8 per 1000, cioè quello che consente l'attribuzione di risorse a chiese e culti che siano legati con un'intesa con lo Stato, ma ce n'è uno che, come la fattoria degli animali di Orwell, c'ha un'intesa che vale più degli altri, perché ovviamente è quella concordataria e successiva intesa, cioè la Chiesa Cattolica, e sulla base di questo, in concorrenza in teoria con lo Stato, voi potete formulare delle scelte, sapendo però che conta anche l'inoptato, per così dire, che quindi il più della percentuale va alla Chiesa Cattolica, per questo che io considero un abominevole trucco. Non è solo questo quello che non va, perché la Corte dei Conti ci informa ogni anno di tantissime cose sulle quali bisognerebbe mettere mano nell'8 per 1000, al di là del fatto, e qui mi taccio perché faccio parlare il nostro ospite, del fatto che secondo me un paese civile non dovrebbe avere l'8 per 1000, il 5 per 1000, il 2 per 1000, l'8 per 1000 e questo per le chiese. È stato 5 per 1000 e quello per il terzo settore, ridicolmente per ogni anno finanziato con conferme annuali a seconda degli andamenti di cassa, cioè lo Stato ha detto voi potete scegliere quello che volete, ma la quantità concreta su cui faccio la distribuzione dipende da quanti soldi gli voglio dare io, una cosa abominevole rispetto all'importanza del terzo settore. E poi il 2 per 1000 ai partiti, che invece è un altro canale più agevolato degli altri, non si capisce perché, ma lo si capisce chiaramente, perché i partiti con la greppia ovviamente scrivono le leggi a proprio vantaggio. Allora, nel mio paese civile questi tre canali dovrebbero essere uniformati con criteri standard, senza distinguere tra chiesa e terzo settore e associazionismo di tipo civile e politico. Naturalmente non è così, ma al netto di tutto questo sentiamo un pochino l'esperto, di cui ci fidiamo perché sappiamo come la pensa, cioè il professor Dario Stevanato, che è insegnante tributario a Trieste, le cose almeno più gravi di questo 8 per 1000 su cui non si capisce perché lo Stato non ha nessuna intenzione di mettere le mani. Grazie di essere con noi innanzitutto. Grazie a voi, buongiorno. Ma io in pochissimo tempo dividerei la questione su due grossi temi. Cioè, il primo è un tema di equità e di distorsioni che invece sono insite nel meccanismo, e il secondo aspetto, insomma, va affrontato, è quello dell'efficienza. Allora, sul tema dell'equità, il sistema che è in vigore da ormai alcuni decenni ha una particolarità, cioè è presentato come una scelta libera dei cittadini di destinazione di una propria quota dell'IRPEF, ma in realtà non funziona in questo modo. Allora, una prima questione riguarda le opzioni, perché il soggetto che opta nella dichiarazione dei redditi, i soggetti che optano alle chiese sono, alla luce delle statistiche della Corte dei Conti, meno della metà dei contribuenti. Della platea. Gli altri, cioè la maggioranza dei contribuenti, non esercita alcuna opzione. Questo potrebbe far pensare che quindi questa imposta di quelli che non optano non viene destinata a nessuno. In realtà non è così, perché il sistema funziona come un'imposta di scopo, cioè l'8 per 1000 viene comunque, quindi parliamo di una cifra ingente di oltre di un miliardo, circa 1,2 miliardi all'anno, viene comunque destinata, poi vedremo in prevalenza a chi, ed è facile capirlo, e in prevalenza va alla Chiesa Cattolica, perché la maggior parte di quelli che optano in quel senso. Ma ecco, tutta l'IRPEF relativa all'8 per 1000 viene comunque destinata, quindi anche le quote di coloro che non optano vanno a finire in proporzione ai soggetti che hanno invece esercitato l'opzione. Ma perché? Perché, adesso, se posso aggiungere una cosa, c'è un'ulteriore distorsione che non funziona come ad esempio il 5 per 1000, in cui io decido a chi dare, esatto, individuo il soggetto a cui voglio dare la mia IRPEF, il mio 5 per 1000. In questo caso l'opzione non riguarda l'IRPEF effettiva del singolo, ma un'IRPEF media. In pratica vengono contati il numero dei soggetti che hanno fatto l'opzione, vengono suddivise le varie percentuali, quindi ad esempio l'80% hanno optato per la Chiesa, e a quel punto non c'è una corrispondenza univoca tra chi ha fatto l'opzione e la sua IRPEF che finisce a quel certo soggetto, perché l'opzione in realtà riguarda una quota indistinta, una quota di IRPEF media. Quindi paradossalmente chi ha un IRPEF maggiore, un soggetto che ha redditi elevati e paga tanta IRPEF, non può in realtà decidere sulla propria destinazione nei due sensi, sia perché anche non optando la sua quota finisce comunque nel calderone, sia perché in realtà lui non governa la propria IRPEF, ma soltanto un'IRPEF media teorica che sarà molto più bassa in questo caso. Il perché è stato fatto questo è secondo me un mistero, perché l'altra vicenda importante di questa storia è il piano dell'efficienza. La norma nasce per sostentare prevalentemente il clero, ma nel tempo le risorse IRPEF sono aumentate in modo molto considerevole, quindi ad oggi ci troviamo un meccanismo che comunque attribuisce nei fatti e per la maggior parte alla Chiesa Cattolica una quota ingente di gran lunga eccedente alle necessità di sostentamento del clero, e qui si verificano dei paradossi, per cui si vede dalla relazione della Corte dei Conti che c'è una commissione paritetica che periodicamente fa una sorta di indagine sulla destinazione delle somme e scopre che la Chiesa le destina a scopi che non rientrano esattamente in quelli previsti dalla legge. E la cosa curiosa è che la Chiesa si difende giustamente dicendo: beh, cosa ci possiamo fare? Nel corso del tempo le risorse sono aumentate, piuttosto che destinarle a fondi di riserva, qualcosa ne facciamo. Ah, ecco. Cioè, il profilo dell'inefficienza, cioè una cosa che sarebbe nata per uno scopo ben preciso, in realtà ha assunto degli aspetti quantitativi che eccedono le necessità, e questo e qui concludo per non dilungarmi, si dimostra la più generale inefficienza dei tributi di scopo, perché nei tributi di scopo io non scelgo a priori la spesa da finanziare, ma destino un certo gettito a una finalità. Se poi quel gettito è eccedente si verifica inevitabilmente inefficienza. Ma la cosa incredibile è che lo Stato, che abitualmente non ha certo lesinato fantasia dall'introduzione di fattispecie di reato che non esistevano nel codice all'attribuzione di incentivi completamente lunari ai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, lo Stato è assetato di nuove entrate, lo ha dimostrato in tanti anni, e noi siamo felici che il Presidente del Consiglio, grazie a una cartella erariale, adesso, come tutti, abbia pronunciato delle parole che prima non... ragazzi, l'esperienza insegna. Ma detto questo, com'è che lo Stato, di fronte a questo, è la stessa CEI a dire, ma del resto lo Stato non si dà neanche da fare per proporre la sua scelta alternativa ai contribuenti? Non è un po' singolare, professor Stevanato? È molto singolare, infatti la Corte dei Conti rileva non solo l'assenza di iniziative pubblicitarie, quindi lo Stato non fa conoscere ai contribuenti e ai cittadini che cosa potrebbe fare, e sarebbero cose assai utili, ad esempio l'assistenza ai rifugiati o progetti di, di sostentamento sociale di soggetti deboli, non fa conoscere ai contribuenti che cosa potrebbe essere fatto con quelle risorse. Ma io direi che però la cosa ancora più grave è un'altra, cioè si scopre che le somme che vanno allo Stato, che sono poche anche perché manca la pubblicità, vengono distratte. Esatto. Ci sono delle leggi che svuotano questo serbatoio che nel 2013 la Corte dei Conti ricorda, è un caso eclatante. Si era partiti da una somma disponibile teorica di 170 milioni e sono rimasti 400 mila euro. Cioè praticamente il 99% della somma che lo Stato doveva usare per gli interventi nel sociale è stata distratta da altre finalità. Quindi questo la dice lunga sulla capacità. Quasi si potrebbero agganciare altri discorsi come quello dei fondi per la riduzione della pressione fiscale. Insomma, ci sono seri dubbi sul fatto che quei fondi verranno usati in tal senso, come dimostrano anche queste esperienze. Non c'è dubbio, distrazione del rispetto alle finalità di legge anche per lo Stato. Risposta di Alessandra. Alessandra di Pescara ci dice: fate disinformazione. Perché facciamo disinformazione? Perché io ho fatto la proposta, nel mio mondo ideale non bisogna distinguere soggetti di tipo ecclesiastico religioso, soggetti del terzo settore e soggetti politici, perché a questo nasce nel tempo l'introduzione 8 per 1000, poi 5 per 1000, poi 2 per 1000 come strumento di graduale assorbimento del ruolo prima dato del rimborso ai partiti. Perché, dice Alessandra, fate disinformazione? Perché ogni anno le associazioni devono produrre i documenti per essere iscritte nella lista del 5 per 1000. Sì, certo. Mentre per regioni e partiti sono iscritti negli elenchi ope legis. Sì, certo. Ma questo che cosa significa? Non si può adottare una disciplina fiscale comune più rispettosa delle libere scelte, quindi della sussidiarietà da parte del cittadino, riguardino esse la religione, l'attività politica, il terzo settore. La mia opinione è che non è disinformazione dirlo. I suoi sono i presupposti formali che sono diversi. Quello che è giusto, la ringrazio, che dice che ci ha segnalato Alessandra, che dice nessuno ne parla, ma quest'anno c'è anche la scelta del 2 per 1000 per le associazioni culturali, l'elenco di 48 pagine nel sito del MIBAC. Sono d'accordo su quello che vuole, però la mia opinione è che la graduazione della quantità rispetto alla libera scelta dell'indicazione della donazione è la maniera discrezionale con cui lo Stato riserva le priorità. E come vede, le priorità, lo Stato le ha riservate alla CEI, cioè alla Chiesa Cattolica, alla quale nelle intese bilaterali già riserviamo belle condizioni di favore su, per esempio, la tassazione degli immobili, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, ecco, e su questo io sono a favore della sussidiarietà, invece, rispetto a politica e religione. Soprattutto lascerei tutta la libera scelta, ma con un unico trattamento. Torniamo tra un minuto. Della belva. Allora, cari ascoltatori, qui c'era un dibattito tra noi sulle associazioni culturali, perché il 2 per 1000 dei partiti, ho dato la risposta, ma non voglio aggiungere tra di noi, perché ce ne sono alcune delle associazioni culturali che storicamente sono, per così dire, fanno parte del mondo complementare si ai partiti. Si paga la tessera per entrare ai concerti, questo te lo posso dire. Questo chiunque certo di noi è passato a qualche annetto in più sa di che cosa stiamo parlando. Io, questo per esempio, mi dispiace aver perso il contatto con chi è più giovane, cioè 15-17 anni, ma oggi l'ARCI è potente come era potente ai nostri tempi nelle scelte giovanili, perché ai nostri tempi era potentissima. Io ragazzi, so solo che ne hanno aperta una a 30 metri da casa mia. Per cui vuol dire che ancora della vitalità è rimasta. No, la vitalità c'è, però era una potenza. Io frequento ogni tanto qualche circolo per i concerti, però non sono molto aggiornato. No, ma dai, ma i tuoi concerti di Arlisti sono... Cioè, no, l'Arci fa parte del modernariato, blues, come le motociclette con cui ci andate. Tac! Siluraccio! Ma no, io vado a vedere i miei amici che suonano blues, il rock, quelle cose lì. Sì? Sì. Ma... secondo me siete dei quando guardate i GP, se non guardate quelli di Valentino Rossi, che già anche lui, e che Dio ce lo preservi, guardate solo quelli di Agostini e di Elwood, secondo me. Questo siete in una fascia di età, per cui allora. Beh, ma Agostini neanche ci saprebbe salire su una moto di questa, lo sai? No, credo che ogni tanto fanno le corse quelle d'epoca. Io ho anche degli amici quelle d'epoca, sì. Ma Ago, se la metti sulla moto, se di, lo metti su una moto di, Rossi, di Lorenzo sa come si accende, ma secondo me una curva non riesce a farlo piegato. Non ne sarei così sicuro. Non lo so, sarebbe da vedere però, con la parte di elettronica. Bisogna chiamare che quelli dello sport. Qualche volta magari bisognerebbe organizzare una cosa simile. No, non so se lo sappiano neanche loro, perché questi sono misteri della fede, perché vabbè, perché io motociclista, cari ascoltatori, il problema guarda, è guarda che abbiamo chiuso alle 55. Ma lo so, però fatemelo dire, è uno sport in cui si può dire ufficialmente il vero talento sta tutto nel culo, perché la moto è questa roba qua. Poi non c'è tempo per spiegare. No, un po' di braccia, anche un po' di braccia. Beh sì, però quella è una parte fisica, il culo invece è talento puro. Allora, che cos'è? Ma anche le automobili, però è diverso. Dai, lo sai meglio di me, perché con culo tu sfioli, violi le leggi di gravità rispetto al baricentro quando curvi. Dai. Adesso gli ascoltatori saranno perplessi da ma la moto è una religione. C'è un sacco di gente che viola le leggi di gravità col culo in Italia. Ma in un altro senso. No, quest'anno allora, visto che siamo alla fine, quindi immagino che tocchi a me, giusto? No, oggi te la sei scelto tu questa parte in comodazione. Oggi volevo proporre un viaggio nel sole 24 ore di oggi, non perché sia il sole 24 ore. No. Un viaggio nel sole 24 ore. Allora, se voi avete sotto mano il sole 24 ore, andate a pagina 22 e leggete un commento di Franco De Benedetti, dove dice che in Italia c'è una parte di stagnazione dovuta a una burocrazia in eccesso. Poi tornate indietro di 5 pagine, andate a pagina 17 e scoprite che nonostante abbiamo tolto dalla legge la parolina, i giudici hanno detto ma è inutile che la togliamo, perché è insita nello stesso fatto la valutazione all'interno di un bilancio, quindi per noi il bilancio è fatto tutto di valutazioni e quindi per noi il penale rimane. Poi andate avanti. Stiamo parlando dell'esclusione o meno delle valutazioni, cioè delle stime per configurare o meno una fettispecie penale nei conti di un'impresa. Poi andate avanti e trovate una bellissima notizia su un'azienda che fa grafene, che è uno dei materiali del futuro, che è nata a Lomazzo, Como, che è stata quotata e ha fatto più 36%. E piccolo che avrò problema, ospite questa settimana in trasmissione. Piccolo problema, la società ha sede a Londra ed è stata quotata a Londra. E poi chiedetevi il perché. Ecco, viaggio nel sole 24 ore mentre mi fanno ciao ciao con la manina. Non dovevamo parlare del culo e della moto. Va bene, parleremo solo del culo e della politica. Come sempre faremo invece le nostre trasmissioni. Grazie cari compari, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Continuate con la 24, appuntamento alle 8:15 di lunedì mattina con me, Alessandro Milan. Attenti a noi due.